Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Paiechi, merri, pallunari, testazza o cudalonga, carnicani e poi ancora ufurgiaru, cupertuni e massaro mico. Non è uno scioglilingua, anche se può sembrarlo. Sono le varie branche criminali e alcuni dei soprannomi dati a boss incontrastati della Cosca Alvaro, che da Sinopoli parte e da Sinopoli a 500 metri dal mare, su per i primi contrafforti dell'Aspromonte, arriva. Un testacoda criminale con una scia infinita di sangue, morte e potere che si estende a Roma, dove sono stati appena confiscati agli Alvaro 200 milioni di beni, tra i quali il famoso Café de Paris, nel nord Italia e all'estero, dall'Europa all'Australia alle Americhe. Questi sono gli Alvaro che, pur divisi e separati per genie di affari, rappresentano in unicum il gota dell''ndrangheta regina. Un Alvaro, Antonio, poche settimane fa ha scritto una lunga e letterata missiva a Piero Sansonetti, direttore di una testata calabrese, esattamente un anno dopo la morte del padre Don Micu, secondo i magistrati uno dei protagonisti della Pax mafiosa in Calabria del 92, la cui memoria è stata familiarmente difesa a spada tratta dal figlio. Antonio Alvaro critica in maniera feroce Don Pino De Masi, vicario della diocesi di Palmi Oppido e referente di Libera in Calabria, che ha negato il trasporto un anno fa della salma nella chiesa di Sinopoli di Don Micu. La lettera di Antonio Alvaro si conclude con «La giustizia terrena e quella divina sono per fortuna due cose distinte e separate». Chiaro il messaggio, la giustizia terrena. «Lunga vita a te, caro Don Pino De Masi, l'unico don la cui autorità e autorevolezza Sinopoli e la Calabria tutta dovrebbero riconoscere». Per gli approfondimenti ricordo il mio blog Guardioladri, mentre le vostre segnalazioni vanno indirizzate a sottotiro@radio24.it. Grazie in redazione a Luca Cremonese e in regia a Fabio Cantadori. Buona giornata e a domani.